Greenville. Il capo del conservificio disse: Chiedi a Sam. Ha una barca a gas e viene da Greenville. E quello laggiù con la camicia a righe, Sam. Mi avvicinai al punto in cui Sam stava spalando i salmoni dalla chiatta agli scivoli del conservificio. Sam, voglio andare a Greenville. Potresti portarmi lì domenica? A che ora domenica? Alle 8. Domenica mattina rimasi seduta sul molo dalle 8 a mezzogiorno. La barca a gas di Sam era lì sotto. C'era un telone giallo teso al centro, quattro piedi nudi spuntavano da un lato e due teste nere dall'altro. Sam e suo figlio impiegarono 4 ore a caricare. Andavano su e giù a prendere le cose come se il tempo non esistesse. Verso mezzogiorno, finalmente, il chiassoso strombazzare della barca a gas attraversò l'ampio fronte del fiume Nass. L'indiano e suo figlio erano viaggiatori silenziosi. Io avevo un cagnolino che sedeva ai miei piedi, tremante e vigile. Mi sentivo come un pianoforte aperto su cui chiunque potesse strimpellare. Il grande fiume Nass scorreva. Il piccolo fiume senza nome su cui si trovava Greenville si riversava nel Nass. Quando la nostra barca passò dal grande al piccolo fiume, il suo motore si spense dopo qualche sbuffo. Poi andammo alla deriva per un breve tratto e ci accostammo a un rozzo approdo di tavole. Era Greenville, era tra le luci, né giorno né buio. 5 o 6 ombre scesero zoppicando dalla riva verso l'approdo. Cani indiani, creature abbandonate, sapevano che il motore significava uomo. I cani avevano un'aria strana. Che problema hanno quei cani? Porco spini, grugnì l'indiano. I musi dei cani erano gonfi e deformi, gli aculei di porcospino si erano incancreniti nelle tumefazioni. Perché gli indiani non portano con sé i loro cani invece di lasciarli a morire di fame o a cacciare porcospini? Il capocane ridice no, cani. Quando mi avvicinai, i cani si allontanarono ringhiando. Quello è feroce, avvertì l'indiano. Nel crepuscolo, con le lenzuola e i fagotti sulle spalle, i due indiani sembravano mostruosi mentre risalivano la riva davanti a me. Tenni stretto il mio cane per paura della ferocia di quei cani ombra che ci seguivano. Greenville era un grande villaggio, basso e piatto. Le sue paludi e i suoi fossati stagnanti erano un paradiso per le zanzare. Solo il ronzio di queste miserabili creature smuoveva la pesante oscurità che ci imperlava la fronte di sudore mentre ci facevamo strada. Case mezze costruite e grezze, vecchie prima ancora di essere finite, sorgevano irregolari lungo il sentiero d'erba alta. Tavole su cavalletti spelacchiati facevano da ponti sul terreno fangoso. Il vuoto traspariva dalle finestre e gridava dai camini morti. Un vuoto pesante che schiacciava il respiro nei polmoni e raffreddava il cuore nel corpo sudato. Inciampando su sassi e dossi, mi affrettai a seguire gli uomini che erano ansiosi di mollarmi e di ritornare sul fiume Nass fino al conservificio. Chiesi all'indiano: Non c'è nessuno in questo villaggio? Solo un vecchio, una donna e un bambino si sono fermati. Tutti gli altri sono andati alla fabbrica di conserve. Dove posso alloggiare? Ah, la casa della maestra ti andrà bene. E dov'è lei? Anche la maestra se n'è andata. Eravamo ormai lontani dal villaggio e ci facevamo strada tra i rovi alti fino al petto. L'edificio della scuola si trovava in mezzo ad essi, sul limitare del bosco. Era scuola e abitazione insieme. Gli alberi la strangolavano, il sottobosco si arrampicava sulle sue finestre. L'indiano sbloccò la porta, ci spinse dentro e la sbatté violentemente, come se ci fosse qualcosa di terribile dietro di noi. Cos'è che hai chiuso fuori, Sam? Zanzare. Qui il ronzio delle zanzare si era fermato, come si era fermata ogni altra cosa nel grigio torbido di quel luogo terribile. L'orologio, il calendario, persino l'aria. Il fiammifero che l'indiano aveva acceso si rifiutava di bruciare. Ci facemmo strada attraverso la lunga aula scolastica fino a una stanza retrostante che era ancora più buia. Aveva una tenda tirata e ogni fessura era sigillata. L'aria sembrava compatta come il tavolo e la stufa. La si masticava piuttosto che respirarla. Sapeva di olio, di carbone, dopo che accendemmo la lampada. Aprii la porta del capanno. Era buono il pungente odore che entrava di legna tagliata da ardere. Gli indiani se ne stavano andando. Fermo! Il vecchio e la donna dove sono? Mostrameli! Prima di andarmene, aprii tutte le porte. Erano meglio le zanzare di questa aria mortifera che mi soffocava e comunque non sarei mai riuscita a tornare indietro da sola ad aprire quella porta che dava nella grande stanza buia. Corsi tra i rovi e raggiunsi gli indiani. Mi condussero alla casa più lontana del villaggio. Era separata dalla scuola da uno spazio pieno di disperata solitudine. Il vecchio era sul pavimento, sembrava un uccello rinsecchito sul suo materasso, avvolto in una zanzariera. Aveva la lombalgia. C'erano anche la moglie e il nipote. La sua energia femminile rimase con me quando tornai. Per tutta la notte fui felice che ci fosse quella donna a Greenville. Quando tornai alla scuola era buio e l'aria trasudava lentamente nella stanza. Mi sentivo una ladra che si impossessa delle cose altrui senza permesso. La maestra aveva lasciato tutto in ordine, tutto diceva il tipo di donna che era. Presto feci girare l'aria all'interno della stufa e una piccola fiamma vacillò. Girai i fogli del calendario e caricai l'orologio. Quando il bollitore fischiò finalmente, lo spazio intorno cominciò a sembrare vivo. La notte fu lunga e nera. Quando arrivò l'alba, vidi le cose spuntare lentamente dal nero. Ogni cosa era una sorpresa. Le notti successive in questo luogo non furono brutte come la prima, perché mi ero abituata. Tutti i miei sensi avevano toccato gli oggetti intorno a me, ma a rendere la prima notte così orribile fu lo stare sdraiata in quel buio soffocante e il non sapere che cosa mi stesse vicino, cosa avrei potuto toccare se avessi allungato una mano. Quando al mattino aprii la porta della scuola, i cani del villaggio erano tra i rovi a guardare. Erano impazziti per i biscotti che avevo gettato loro. Uno nero si accucciò e mi permise di togliergli gli aculei del porcospino dal muso. Quando gli altri videro che lui non aveva più paura, si avvicinarono anche loro. Erano esseri viventi che cercavano qualcos'altro oltre il cibo. Cominciarono a seguirmi ovunque andassi nel villaggio, nei luoghi paludosi, nei fossati di Greenville. Crescevano cavoli maleodoranti, dorati di falsa bellezza, che facevano capolino dal verde lussureggiante delle loro grandi foglie. Il loro odore era nauseante. Guardai attraverso le finestre senza vetri delle case indiane. Pasti lasciati a metà erano disseminati sui tavoli. Poiché la marea era propizia per partire, le lenzuola erano state strappate dalle molle e il cibo lasciato abbandonato. L'acqua lasciata ad arrugginire nei bollitori. Gli indiani entravano e uscivano dai loro alloggi come animali. Le maree e le stagioni sono ciò che realmente regola le loro vite. Le sistemazioni domestiche sono semplici casualità. Le case sembravano uscite da una scatola di dadi e rotolate sul terreno, rimanendo lì dove si erano fermate. Gli elementi le avevano dominate fin dall'inizio. Non appena si mettevano insieme alcune tavole, la famiglia si trasferiva e la casa continuava a costruirsi intorno a loro finché non arrivava qualche nuovo interesse. A quel punto l'indiano abbandonava gli attrezzi. Se gli si chiedeva quando avrebbe finito di costruire la casa, rispondeva: "Il giorno della mungitura, ora sono troppo occupato." E dopo aver succhiato a lungo dal cannello della pipa, probabilmente si sarebbe sdraiato al sole per giorni interi senza fare nulla. Andavo spesso nell'ultima casa del villaggio a chiacchierare con la donna. Non era così vecchia come pensavo all'inizio, ma era molto segnata dalle intemperie. Era un'anima gentile, ma non parlava inglese. Conversavamo a gesti. Una indicava qualcosa, l'altra batteva le mani e rideva, oppure si lamentava e scuoteva la testa. Anche le nostre sopracciglia indicavano, così come le spalle e la testa. Ci siamo scambiate molte informazioni e divertimento. Il mio cagnolino era una gioia per lei. Con una risata che le faceva traballare il grasso, metteva il dito sulla punta del suo naso largo e lo arricciava all'indietro verso la fronte, imitando il naso del cane, e rideva fino alle lacrime. Per tutto il tempo i solenni occhi neri del nipote la fissavano. La donna apprezzava anche i miei mutandoni che scendevano sotto le gonne fino alle suole delle scarpe, le mie doppie paia di guanti e il velo di garza con un'apertura sul davanti. Questa era la mia armatura anti-zanzare. La sua consisteva in un paio di calze di lana pesante, lavorate a mano e indossate una sull'altra fino a formare uno strato più spesso dei pungiglioni delle zanzare. In questo modo le sue gambe sembravano barili. Io e il vecchio avevamo qualche parola Chinook in comune. A volte andavo nel capannone buio dove stava costruendo una barca. L'aria era soffocante. Lacrime e sudore circolavano sul viso. Si asciugava il volto con la bandana che galleggiava sotto la tesa del cappello per proteggersi il collo, imprecava contro le zanzare e si massaggiava la schiena dolorante. All'improvviso il suo sguardo coglieva l'espressione comica del mio cagnolino e anche lui gettava gli attrezzi e si abbandonava al divertimento. Quando rideva era il momento di chiedergli qualcosa. Mi dispiace che non ci siano totem a Greenville. Mi piacciono i totem, dissi. Halo totem stick copa Greenville. Il vecchio villaggio con i totem sul nas? Mi piacerebbe vederli. Mi ci porti sulla tua barca? Halo tillicum copet. Voglio vedere i pali, non le persone. Mi porti domani? Così andammo a Gitex e Angedar, due antichi villaggi sul grande fiume Nas. La sua vecchia barca si insinuava nei meandri laterali del fiume e all'improvviso sbucammo sulle sue acque turbolente e le attraversammo. E lì, riversi come ubriachi sulla fitta vegetazione, c'erano i pali totemici di Gitex. Sembravano semplici bastoncini nel vasto mare di vegetazione che aveva inghiottito il vecchio villaggio. Un tempo erano stati anch'essi alberi della foresta, finché l'indiano non li aveva mutilati e trasformati in pali, spogli. Poi aveva scolpito il liscio palo con delle incisioni. Voleva un modo per mostrare alla gente le immagini che aveva in mente, quelle che riguardavano se stesso, le creature e la loro relazione. Tagliò delle forme che si adattassero ai presagi che gli uccelli, gli animali e i pesci gli suggerivano e a queste aggiunse qualcosa di suo. Quando furono tutti collegati insieme sul palo, raccontarono un'immagine molto forte per il popolo. Fissò questa nuova forma di espressione sui grandi tronchi di cedro e li chiamò pali totemici e li eresse nei villaggi con grandi cerimonie. Allora il cedro, le creature e l'uomo parlarono con la gente, riuniti insieme nei pali totemici. L'intagliatore fece ancora di più. Lasciò che la sua immaginazione si elevasse al di sopra degli oggetti che vedeva con gli occhi e immaginò anche esseri soprannaturali. Gli indiani comprendevano le creature che avevano carne e sangue come loro, le accettavano come loro antenate, ma le cose soprannaturali le temevano e cercavano di propiziarsele. Ogni clan prendeva una creatura come suo simbolo e protettore particolare, in una parola come totem. Gli individui avevano anche totem personali che si conquistavano da soli, spesso attraverso prove iniziatiche, fisiche e spirituali, come privazioni e digiuni. Si riteneva che questi pali totemici aiutassero in modo particolare coloro che condividevano la loro, tra virgolette, medicina, ovvero l'insieme delle loro caratteristiche energetiche, fisiche e magiche. Quando si guardava il totem di un uomo, i simboli scolpiti raccontavano chi era, chi poteva sposare e chi no, perché alle persone con gli stessi totem era vietato sposarsi tra loro. Si sapeva anche dal totem che tipo di uomo era, o almeno che cosa avrebbe dovuto essere, perché gli uomini cercavano di assomigliare alla creatura che avevano per simbolo totem, feroce o coraggiosa o saggia o forte. Poi arrivarono i missionari e dissero agli indiani che tutto ciò era sciocco e pagano. Portarono via gli indiani dai loro vecchi villaggi e dai pali totemici e li condussero in nuovi luoghi dove la vita era più facile, dove si compravano le cose in un negozio invece di catturarle dalla natura. Greenville, che gli indiani chiamavano La Calzap, era uno di questi nuovi villaggi. Non portarono con sé alcun totem che potesse ostacolare il loro inserimento in nuovi modi di vita. I pali furono lasciati in piedi nei vecchi luoghi, ma ora non c'era più nessuno ad ascoltare i loro discorsi. Prima o poi sarebbero marciti e caduti a terra, a meno che non fossero arrivati gli uomini bianchi e li avessero portati nei musei. Lì sarebbero stati etichettati come reperti, muti davanti alle folle che sbigottivano e ridevano e dicevano: «Questa è la follia distorta di un popolo incivile». E i poveri pali non potevano rispondere, perché l'uomo bianco non capiva la loro lingua. A Gitex c'era un orso di legno in cima a un palo così alto che riusciva ancora a guardare oltre il bosco. Era un orso buffo. Ogni sua parte era allegra, aveva una zampa contro il viso, si piegava in avanti e le zampe si aggrappavano al palo. Cercai di girargli intorno per poterlo vedere in faccia, ma il mostruoso groviglio verde era impossibile da superare. Mi feci strada fino alla base di un altro palo, ma mi ritrovai soffocata sotto una valanga di vegetazione che scendeva a valle. Il cane e io eravamo soli, solo un niente nell'immensità travolgente. Il mio indiano si era spinto fino a metà del fiume. Mi sembrò una cosa terribile infrangere quel silenzio con un grido, ma avevo fame e non osavo alzare il velo finché non fummo molto al largo del Nas. Le zanzare mi avrebbero riempito la bocca. Dopo 7 giorni gli indiani tornarono con la loro barca e mi portarono di nuovo lungo il Nas. Lasciai il vecchio e la donna impegnati a non far nulla, la donna al suo lavatoio e l'uomo nella sua soffocante rimessa. Ognuno di loro mi salutò con un rapido sorriso e un cenno di saluto. Per gli indiani andare e venire è qualcosa di ordinario, come respirare. Lasciai fermare l'orologio, richiusi le pagine del calendario e chiusi bene la scuola di Greenville. I cani ci seguirono fino a riva, con lo stomaco e il cuore doloranti nel vederci andar via. Forse, in un certo senso, i cani sono più domestici e più reattivi degli indiani. Due spiccioli e una carriola. La moneta più piccola che avevamo in Canada all'inizio era un decino, del valore di 10 centesimi. Gli indiani la chiamavano a bit, uno spicciolo. La moneta successiva, doppia per potere d'acquisto e dimensioni, era un pezzo da 25 centesimi che gli indiani chiamavano 2 bits, 2 spiccioli. 2 spiccioli, 2 bits, era il prezzo massimo che la vecchia Jenny conoscesse. Chiedeva 2 spiccioli per ogni cosa che aveva da vendere, fosse essa una canoa a vela, un'ala d'aquila, un cesto di corteccia di cedro o una stuoia intrecciata. Il suo prezzo era di 2 spiccioli. E se le avessi chiesto quanto costa tuo marito o il tuo gatto, avrebbe sempre risposto 2 spiccioli. Il suo vecchio marito non aveva un bell'aspetto, era cieco e come mangiato dalle tarme. Tutto il giorno giaceva su un mucchio di stracci in un angolo della loro capanna. Pur essendo completamente cieco, aveva ancora un po' di forza. Jenny lo faceva sdraiare lì quando non veniva accompagnato, perché se andava da solo, cadeva nel fuoco o nella grande pentola di ferro e si bruciava. C'era un tale strame sul pavimento che non poteva fare a meno di inciampare in qualcosa se faceva anche solo un passo. Così Jenny Due Spiccioli ordinò al suo vecchio Tom cieco di rimanere nel suo angolo finché lei non fosse stata pronta. Jenny stava diventando debole, lei pure. Era zoppa da un'anca e camminava con un bastone storto che le aveva portato il mare. Tommy capì che era mattina quando sentì il bastone di Jenny Due Spiccioli che lo colpiva. Il bastone rimase fermo finché lui non lo ebbe afferrato. Poi, sempre reggendo il bastone, Jenny lo guidò verso il luogo in cui lei giaceva. Quando lui si avvicinò, lei si tirò su aggrappandosi ai vestiti di lui. Quando pezzi dei suoi vecchi stracci si strapparono nelle mani di lui, rimproverò amaramente Tom per avere dei vestiti così malconci e poveri. Tom capì quanto fosse presto dalla sensazione di freddo e di umidità quando Jenny lo spinse fuori dalla porta e gli disse di stare vicino al muro e di non muoversi mentre lei andava a prendere la carriola. La carriola stridette nel vicolo. Jenny fece passare Tom tra i manici e lui li afferrò. Poi gli legò una corda a ciascuna delle braccia sopra il gomito, usò le corde come redini e camminò zoppicando, colpendo la carriola con il suo bastone per far avanzare Tom e conficcandogli il bastone nella schiena per farlo fermare. A quell'ora il villaggio era vuoto. Cercavano sempre di essere i primi sulla spiaggia per poter scegliere ciò che il mare aveva portato a riva. Andarono lentamente fino all'estremità della strada del villaggio, dove l'argine era basso, e lì lasciarono la carriola. Jenny, due spiccioli, condusse Tom lungo la riva tranquilla. Sbirciava di qua e di là per vedere cosa avevano portato le onde. A volte il mare dava loro qualcosa di buono, a volte niente, ma c'erano sempre pezzi di legna da ardere e di corteccia da prendere se arrivavano prima degli altri. Gli occhi della vecchia erano molto acuti e la carriola non tornava quasi mai vuota. Quando Jenny trovava qualcosa di utile, prima la studiava, la sbirciava, poi la batteva con il bastone. Poi prendeva la mano di Tom e la posava sull'oggetto bagnato e indurito. Tom lo sollevava e lo depositava nella carriola. Poi tornavano alla baracca e si sedevano al sole fuori dalla porta per riposare. A volte Jenny e Tom andavano in canoa a pescare nella baia. Tom teneva le lenze e Jenny remava. Quando prendevano un pesce o quando Jenny vendeva qualcosa per due spiccioli o quando si sedevano insieme a scaldarsi al sole, erano abbastanza felici. Il sonno. Quando ero bambina mi trovavo in una delle spiagge di Victoria. Ero giù sulla punta a osservare un branco di focene in azione al largo di Trial Island, quando una canoa doppiò il promontorio. Stava puntando dritta verso la nostra spiaggia. Il governo permetteva agli indiani di utilizzare le spiagge quando viaggiavano, così si accampavano e passavano la notte dove capitava. Nella canoa c'erano un uomo, una donna e una mezza dozzina di bambini, un cane, un gatto e una gabbia di galline, oltre a tutte le cose degli indiani. Era una canoa della costa occidentale, ricavata da un grande cedro rosso. Era lunga e sottile, con un'alta prua a forma di testa di lupo. Era dipinta di nero, con una linea di blu che correva intorno alla parte interna. La poppa scendeva dritta nell'acqua, la donna indiana sedeva a poppa e guidava la canoa con una pagaia. Quando la canoa fu vicina alla riva, l'uomo e la donna diedero un colpo di remi forte e deciso e la canoa schizzò in alto sui ciottoli con un suono raspante. I bambini a piedi nudi si gettarono sul fianco della canoa e si misero a guardare la riva. L'uomo e la donna scesero e trascinarono la canoa sulla spiaggia. C'era un bambino infilato nello scialle della donna. Lo scialle teneva il bambino aderente al corpo di lei. La donna camminava lentamente sulla spiaggia, con i piedi nudi che si posavano sulla sabbia un passo dopo l'altro e con il corpo carnoso e massiccio. Tutti i movimenti dell'uomo e della donna erano lenti e costanti, i loro piedi piatti, privi di scarpe, le loro schiene e le loro spalle dritte. Le poche parole che si dicevano erano gutturali e basse. I bambini indiani non correvano su e giù per la spiaggia, stupiti dalle strane novità, come facevamo sempre noi. Questi bambini appartenevano alla spiaggia e ne facevano parte come i tronchi e le pietre alla battigia. L'uomo raccolse una manata di bastoni e accese il fuoco. Tirarono fuori dalla canoa una grande pentola di ferro e il loro cibo e li misero vicino al fuoco. La donna si sedette tra le sue cose con il bambino, manovrando scialle e bambino così da avere le braccia libere e le mani che potevano muoversi tra le pentole e il cibo. L'uomo e un ragazzo, grandi più o meno come me, salirono il sentiero sulla riva con dei secchi di latta. Quando mi videro, il ragazzo si fermò e mi fissò. L'uomo sorrise e indicò il nostro pozzo. Aveva capelli selvaggi che gli pendevano fino alle spalle, non erano spazzolati e la testa era legata con una fascia rossa. Aveva rughe ovunque, sul viso, sulle mani, sui vestiti. Il cappotto e i pantaloni erano a brandelli. Era bruno e sporco dappertutto, ma il suo volto era dolce e gentile. Immediatamente sentii il rumore dei loro piedi nudi sull'argilla del sentiero. L'acqua del secchiello del ragazzo si versò nella polvere mentre mi fissava. Prepararono il tè e mangiarono qualcosa dalla pentola di ferro. Era pesce, ne sentivo l'odore. L'uomo e la donna stavano seduti accanto alla pentola, ma i bambini prendevano i pezzi e correvano su e giù mangiando. Avevano appeso una tenda al ramo di un vecchio salice che si protendeva sulla sabbia dalla riva. I fagotti e le coperte erano stati gettati nella tenda. I lembi erano aperti e potevo vedere tutto ciò che era stato buttato a casaccio all'interno. Ogni bambino mangiava quanto voleva, poi entrava nella tenda e si buttava tra i fagotti, morto di stanchezza. Anche l'uomo smise di mangiare. Entrò nella tenda e si sdraiò. Il cane e il gatto erano raggomitolati tra le coperte. La donna sulla spiaggia mise da una parte i legni ancora fumanti. Quando vi versò sopra un po' d'acqua, essi sibilarono. Infine, anche lei entrò nella tenda con il suo bambino. La tenda, piena di creature addormentate, divenne grigia nell'ombra sotto il salice. La testa di lupo della canoa rimase scura sulla spiaggia ancora per un po', poi svanì, ingoiata dalla notte. Il mare intanto continuava a sciaguattare sulla spiaggia. In navigazione verso Yan. All'ora stabilita mi sedetti sulla spiaggia ad aspettare l'indiano. Non era arrivato e non c'era traccia della sua barca. Una donna indiana scese dall'argine portando con sé un pesante neonato che non camminava. Con lei c'era una ragazzina esile di 12 anni. Portava una pagaia e avvicinandosi a una canoa leggera che si trovava in alto sulla sabbia, cominciò a trascinarla verso il mare. La donna mise il bambino nella canoa, lei e la ragazza grugnirono e spinsero la canoa in acqua, poi mi fecero un cenno. Vai ora, disse la donna. Andare? Dove? A Yan. Il mio uomo mi ha detto di venire a prenderti, tu vai a Yan. Ma il bambino? Tra Yan e Masset ci sono acque orribili. Non potevo, no, non potevo proprio. Una canoa piccola e ribaltabile, una donna con le braccia impegnate dal neonato e una bambina. Ah, la ragazzina stava armando come vela nella canoa un sacco di farina stracciato. Il palo era già posizionato e lo straccio vi sventolava intorno. Il vento e le onde erano frizzanti e brillanti, erano pronti in attesa che si gonfiasse il sacco e la canoa prendesse velocità. Ma come fai a gestire la canoa e il bambino? Chiesi alla donna, muovendomi nervosamente. Indicando il sedile di prua, la donna ordinò: Siediti. Io salii e mi sedetti. La donna trascinò la canoa con una mano e la fece scivolare sulla sabbia finché non fu in acqua. Poi salì e strinse il bimbo tra le ginocchia. La sua pagaia lavorava senza rumore tra le onde. Il vento riempì il sacco di farina come se fosse stata una vela di seta. La canoa scivolava sull'acqua come un castoro, con un movimento silenzioso. La ragazzina, dritta, con i capelli e gli occhi neri e il vestito stampato abbondante sulle forme infantili, teneva la corda della vela e assecondava la piccola canoa capricciosa. Il sacco ora si gonfiava di vento come un tempo si era gonfiato di farina. La pagaia della donna dirigeva la canoa per tagliare ogni onda. Attraversammo l'acqua e fummo a Yan prima che mi ricordassi di avere paura. La canoa raschiò sulla spiaggia di ciottoli e noi scendemmo. Accendemmo un fuoco sulla spiaggia e mangiammo. I vecchi orgogliosi totem si ergevano solennemente intorno alla baia. Dietro di loro c'erano le vecchie case di Yan e dietro ancora la foresta. Tutti intorno c'era un tripudio di fiori selvatici rosa che spuntavano dalla ricca terra nera e scoppiavano in delicati germogli con ogni ciuffo che puntava dritto verso il cielo. Nessuno viveva a Yan. Gli abitanti si erano trasferiti nel nuovo villaggio di Masset dove c'erano un negozio, un agente indiano e una chiesa. A volte gli indiani venivano a Yan per coltivare qualche pezzo di giardino e quando se ne andavano Lo sguardo fisso nelle cavità vuote degli occhi dei totem li seguiva attraverso il mare, così come gli occhi tristi dei cani incatenati seguono i loro padroni che se ne vanno. Un solo volto scolpito sorrideva nel villaggio di Yan. Si trovava su un basso palo mortuario ed era quello di un uomo che indossava un cappello dell'onore molto, molto alto. Il ghigno mostrava ogni suo dente. Sul palo che si trovava accanto era scolpita una grande aquila di legno. Guardava il naso con un'espressione cupa, come una sorella maggiore guarda una sorella minore che ride in chiesa. La prima punta alla fine della spiaggia di Yan era bassa e coperta di giunchi selvatici. Da lì si potevano vedere altri promontori, uno dopo l'altro, che sporgevano sempre di più, oltre l'ampia distesa della spiaggia di Yan, fino ai confini del mondo. C'era molto lavoro da fare a Yan. Scesi lungo la spiaggia, lontano dagli indiani. All'inizio faceva caldo, ma a poco la foschia si insinuò nei punti più lontani, oscurandoli uno dopo l'altro, come se si fosse improvvisamente accorta che ci era permesso di vedere troppo. La nebbia si avvicinava sempre di più, fino a catturare anche Yan nel suo biancore lanoso. Mi rubò i totem. Erano rimasti solo quelli più vicini, strisce grigie nella nebbia. Vedevo me stessa come uno straccio bagnato in una vasca di schiuma. Quando la nebbia lanosa cominciò a diradarsi sotto la pioggia, andai a cercare la donna. Aveva aperto una delle case ed era seduta sul pavimento vicino a un fuoco basso. Il bambino le dormiva in grembo. Sotto lo scialle, lei e il bambino formavano un unico grande mucchio nella semioscurità della casa. La ragazza si abbracciava le ginocchia e guardava il fuoco. Mi sedetti per riscaldarmi e i miei vestiti fumavano dal vapore. Il fuoco sibilava e scoppiettava attorno a noi. Ho chiesto alla donna: quanti anni ha il tuo bambino? 10 mesi. Non è il mio bambino. Anche quella, indicando la ragazza, non è mia. E a chi appartengono? A me? Una donna me li ha dati. Tutti i miei piccoli muoiono. Ne ho tanti, tanti bambini morti. La mia amica mi compatisce perché non ho più bambini, così mi ha dato questi per me. Ha dato via i suoi figli? Non li amava? Oh, lei ama molto. Lei piange, piange, non mangia, non dorme. Piange, piange tutto il tempo. Allora, perché ha dato via i suoi figli? Io sono sua grande amica. Lei è molto dispiaciuta per me. Lei ha molti altri bambini e così mi ha dato questo e questa. Avvolse il neonato addormentato nello scialle e lo adagiò. Poi sollevò alcune tavole pericolanti che giacevano sul pavimento di terra e trovò una fossa. Si inginocchiò, immerse la mano e tirò fuori un'ascia. Poi portò della legna dalla spiaggia e tagliò tanti bastoni quanti ne avevamo usati per il nostro fuoco. Li pose vicino alle pietre del fuoco, mise l'ascia nella fossa e la coprì di nuovo. Fatto questo, spense il fuoco con cura e chiuse la porta con un lucchetto. La bambina, che guidava la piccola canoa con la vela di sacco di farina, ci riportò indietro attraverso la nebbia silenziosa fino a Masset.